All'alba, finalmente, Eliza smise di sanguinare. La febbre era altissima e la ragazza tremava nonostante il caldo insopportabile della stiva, ma i battiti del polso erano migliorati e respirava tranquilla nel sonno. Comunque non era ancora fuori pericolo. Tao Qian desiderava rimanere lì per vegliarla, ma calcolò che mancava poco all'alba e presto sarebbe suonata la campana che lo richiamava al suo turno di lavoro. Stremato, si trascinò in coperta, si lasciò cadere bocconi sul tavolato e dormì come un bambino, fino a quando l'amichevole pacca di un altro marinaio non lo svegliò per ricordargli il suo dovere. Immerse la testa in un secchio d'acqua di mare per darsi uno scossone e, ancora intontito, si diresse in cucina a bollire la zuppa di avena che costituiva la colazione di bordo. Tutti, compreso il sobrio capitano Katz, la mangiavano senza commentare, salvo i cileni che protestavano in coro nonostante disponessero della maggior quantità di viveri, visto che erano stati gli ultimi a imbarcarsi. Gli altri avevano invece esaurito le provviste di tabacco, alcol e ghiottonerie nei mesi di navigazione che avevano affrontato prima di toccare Valparaiso. Era corsa voce che alcuni cileni fossero aristocratici e che per questo motivo non sapessero lavarsi le mutande o far bollire l'acqua del tè. Chi viaggiava in prima classe portava con sé dei servi che pensava di utilizzare nelle miniere d'oro, perché l'idea di sporcarsi personalmente le mani non gli passava neanche per la testa. Altri preferivano pagare i marinai per essere serviti, dato che le donne si rifiutavano perentoriamente di farlo. Potevano guadagnare 10 volte tanto ricevendoli per una decina di minuti nell'intimità della loro cabina e non c'era motivo di passare 2 ore a lavar loro la biancheria. L'equipaggio e il resto dei passeggeri ridevano di quei signorini viziati, ma mai di fronte a loro. I cileni avevano modi cortesi, sembravano timidi e sfoggiavano buone maniere e spirito cavalleresco. Ma la minima scintilla era sufficiente per scatenare la superbia. Tao Qian cercava di stare loro alla larga. Quegli uomini non celavano il loro disprezzo nei confronti suoi e dei 2 viaggiatori neri imbarcatisi in Brasile, che pur avendo pagato un biglietto a prezzo intero, erano gli unici a non disporre di una cabina e a non essere autorizzati a dividere la tavola con gli altri. Tao preferiva le 5 umili cilene con il loro solido senso pratico, il loro perenne buon umore e quella vocazione materna che affiorava nei momenti del bisogno. Svolse il lavoro di quella giornata come un sonnambulo, con la mente fissa su Eliza, ma fino a sera non ebbe un momento libero per andare a trovarla. A metà mattina i marinai erano riusciti a pescare uno squalo enorme che aveva agonizzato in coperta dando terribili colpi di coda, a cui nessuno aveva osato avvicinarsi per finirlo a bastonate. A Tao Qian, in qualità di cuoco, era aspettato scorticarlo, tagliarlo a pezzi, cucinare parte della carne e salarne il resto, mentre i marinai lavavano il sangue dalla coperta con spazzole e i passeggeri festeggiavano l'orrendo spettacolo con le ultime bottiglie di champagne anticipando il banchetto serale. Conservò il cuore per la zuppa di Eliza e le pinne per essiccarle, perché valevano una fortuna sul mercato degli afrodisiaci. A mano che passava le ore occupandosi dello squalo, Tao Qian si immaginava Eliza morta nella stiva. Provò un'intensa felicità quando poté scendere e rendersi conto che era ancora viva e che sembrava stare meglio. L'emorragia era cessata, la brocca d'acqua era vuota e tutto lasciava pensare che avesse avuto momenti di lucidità nel corso di quella lunga giornata. Ringraziò brevemente Lin per il suo ausilio. La ragazza aprì gli occhi con difficoltà, aveva le labbra secche e il viso arrossato dalla febbre. L'aiutò a sollevarsi e le fece bere un potente infuso di Tan Kuei che ridà sangue. Quando fu sicuro che lo trattenesse nello stomaco, le diede dei sorsi di latte fresco che lei inghiottì avidamente. Rinvigorita, annunciò che aveva fame e chiese dell'altro latte. Le mucche che si trovavano a bordo, poco avvezze a navigare, ne producevano poco. Erano ridotte pelle e ossa e si parlava già di ammazzarle. A Tao Qian l'idea di bere latte sembrava ripugnante, ma il suo amico Ebenezer Hobbs lo aveva informato della sua prerogativa di restituire il sangue perduto. Se Hobbs lo utilizzava nelle diete dei feriti gravi, doveva sortire lo stesso effetto in questo caso, pensò. «Sto per morire, Tao?» «Non ancora», sorrise lui accarezzandole la testa. Quanto manca per arrivare in California? Molto, non pensarci. Adesso devi fare la pipì. No, ti prego. Si schermì lei. Come no? Devi farla. Davanti a te. Ah, oh, sono un Chung Yi, non puoi vergognarti con me. E poi ho già visto tutto quello che c'era da vedere del tuo corpo. Non riesco a muovermi, non ce la farò a sopportare il viaggio, Tao. Preferisco morire. singhiozzò Eliza, appoggiandosi a lui per accomodarsi sulla bacinella. «Coraggio, bambina! Lynn dice che hai molto chi e che non sei arrivata così lontano per morire a mezza strada. Chi? Ah, non importa!» Quella notte Tao capì che non si sarebbe potuto occupare di lei da solo, aveva bisogno di aiuto. Il giorno dopo, non appena le donne uscirono dalla loro cabina e si installarono a poppa, come sempre facevano, per lavare la biancheria, intrecciarsi i capelli e cucire piume e perline sui loro vestiti da lavoro, fece segno ad Azucena Plathers che doveva parlarle. Durante il viaggio non avevano mai usato l'abbigliamento da meretrici. Vestivano pesanti gonne scure e bluse senza fronzoli, calzavano ciabatte. Nel pomeriggio si avvolgevano nelle loro mantelle, si pettinavano con due trecce sulla schiena e non si truccavano. Sembravano un gruppo di semplici contadine affaccendate nei lavori domestici. La cilena strizzò l'occhio con allegra complicità alle compagne e lo seguì in cucina. Tao Chien le consegnò un bel pezzo di cioccolato sottratto alla riserva della tavola del capitano e cercò di spiegarle il suo problema, ma siccome lei non capiva niente di inglese, lui cominciò a perdere la pazienza. Azucena Plathers annusò il cioccolato e un sorriso infantile illuminò la sua tonda faccia da India. Prese la mano del cuoco e se la mise su un seno indicandogli la cabina delle donne, libera a quell'ora, ma lui ritirò la mano, prese quella di lei e la guidò alla botola d'accesso alla stiva. Azucena, tra lo stupito e il curioso, si difese debolmente, ma lui non le diede modo di rifiutarsi. Aprì la botola e la spinse per la scaletta, continuando a sorriderle per tranquillizzarla. Per alcuni istanti rimasero al buio, fino a quando Tao non trovò la lanterna appesa a una trave e riuscì ad accenderla. Azucena rideva. A quanto pareva, quel cinese stravagante aveva compreso i termini dell'accordo. Non l'aveva mai fatto con un asiatico ed era curiosa di sapere se la dotazione era uguale a quella degli altri uomini. Ma il cuoco, che non accennava ad approfittare dell'intimità, la trascinò invece per un braccio facendosi strada in quel labirinto di involti. Temette che l'uomo fosse un pazzo e iniziò a dare degli strattoni per divincolarsi, ma Tao non la liberò e la obbligò a procedere fino a quando la lanterna illuminò il porcile in cui giaceva Eliza. «Gesù, Giuseppe, Maria!» esclamò Azucena facendosi il segno della croce, terrorizzata non appena la vide. «Dille di aiutarci!» chiese Tao Chien a Eliza in inglese, scuotendola affinché si riprendesse. Eliza ci mise un buon quarto d'ora a tradurre, balbettando, le brevi istruzioni di Tao Chien, che aveva estratto la spilla con i turchesi dal sacchetto dei gioielli e la brandiva davanti agli occhi della tremante Azucena. L'accordo, le disse, consisteva nello scendere due volte al giorno a lavare Eliza e a darle da mangiare senza che nessuno se ne accorgesse. Se l'avesse rispettato, a San Francisco la spilla sarebbe stata sua, ma se avesse detto una sola parola a qualcuno, lui l'avrebbe scannata. L'uomo si era tolto il coltello dalla cintola e glielo stava passando davanti al naso, mentre con l'altra mano levava in alto la spilla per far sì che il messaggio risultasse ben chiaro. «Hai capito? Di a questo disgraziato di un cinese che ho capito e che può mettere via il coltello, che se si distrae un momento senza volerlo mi manda all'altro mondo». Per un lasso di tempo che sembrò interminabile, Eliza si dibatté nei deliri della febbre assistita da Tao di notte e da Azucena Plathers di giorno. La donna approfittava delle prime ore della mattina e di quelle della siesta, quando la maggior parte dei passeggeri sonnecchiava, per squagliarsela con circospezione in cucina, dove Tao le consegnava la chiave. Le prime volte scendeva nella stiva con una fifa maledetta, ma ben presto la sua buona indole naturale e la spilla ebbero la meglio sulla paura. Iniziava con lo strofinare Eliza con uno straccio insaponato per toglierle il sudore dell'agonia e poi la obbligava a mangiare le pappe di latte e avena e i brodi di gallina con riso irrobustiti con Tang Wei che Tao Chien preparava. Le somministrava le erbe che lui le prescriveva e di sua iniziativa le dava una tazza al giorno di infuso di borragine. Confidava ciecamente in quel metodo per ripulire il ventre da una gravidanza. Borragine e un'immagine della Vergine del Carmine erano stati i primi oggetti che lei e le compagne d'avventura avevano collocato nei bauli da viaggio, perché senza quella salvaguardia le strade della California potevano rivelarsi dure da esplorare. La malata vagò persa negli spazi della morte fino alla mattina in cui attraccarono nel porto di Guayaquil. Alla piccola borgata, mezzo divorata dall'esuberante vegetazione equatoriale, approdavano poche barche e solo per commerciare frutti tropicali e caffè, ma il capitano Katz aveva promesso di consegnare delle lettere a una famiglia di missionari olandesi. Quella corrispondenza si trovava nelle sue mani da più di 6 mesi e non era un uomo capace di mancare alla parola data. La notte precedente, in preda a una calura simile a un rogo, Eliza aveva sudato la febbre fino all'ultima goccia, aveva sognato di scalare a piedi nudi l'incandescente pendio di un vulcano in eruzione e si era svegliata, inzuppata ma lucida e con la fronte fresca. Tutti i passeggeri, donne comprese, e buona parte dell'equipaggio scesero per un paio d'ore per sgranchirsi le gambe, fare un bagno nel fiume e rimpinzarsi di frutta. Ma Tao Chien rimase a bordo per insegnare a Eliza ad accendere e a fumare la pipa che si trovava nel suo baule. Nutriva dubbi sulle cure da prescrivere alla ragazza e questa era una delle occasioni in cui avrebbe dato qualsiasi cosa per i consigli del suo saggio maestro. Comprendeva la necessità di mantenerla tranquilla per aiutarla a far passare il tempo nella prigione della stiva, ma Eliza aveva perso molto sangue e Tao temeva che la droga le guastasse quello rimasto. Prese la decisione, esitando, dopo aver supplicato Lin di vegliare da vicino sul sonno di Eliza. «Oppio, ti farà dormire, così il tempo passerà più in fretta». «Oppio, mi fa impazzire!» «Tu sei comunque pazza e quindi non hai molto da perdere», sorrise Tao. «Vuoi uccidermi, vero?» «Certo, non ci sono riuscito quando stavi morendo di sanguate, adesso ci provo con l'oppio». «Ah, Tao, ho paura!» «Molto oppio fa male». Poco da consolazione, io te ne darò assai poco. La ragazza non sapeva quanto fosse molto o poco. Tao Chien le dava da bere le sue tisane, osso di drago e conchiglia d'ostrica e le razionava l'oppio per regalarle qualche ora di misericordioso dormiveglia senza permetterle di perdersi completamente in un paradiso senza ritorno. Passò le settimane successive volando in altre galassie, lontano dalla tana insalubre dove il suo corpo giaceva prostrato e si svegliava solo quando scendevano a darle da mangiare, a lavarla e a obbligarla a fare qualche passo nell'angusto labirinto della stiva. Non sentiva il tormento di pulci e pidocchi e nemmeno quell'odore nauseabondo che all'inizio le era risultato intollerabile perché le droghe sconvolgevano il suo portentoso olfatto. Entrava e usciva dai sogni senza alcun controllo e senza riuscire a ricordarli. Ma Tao Chien aveva ragione, il tempo passava più in fretta. Athusena Plathares non capiva perché Eliza viaggiasse in quelle condizioni. Nessuna di loro aveva pagato il biglietto. Si erano imbarcate con un contratto con il capitano che avrebbe riscosso l'importo una volta arrivate a San Francisco. «Se sono vere le voci che girano, in un giorno solo ti metti in tasca $500. I minatori pagano in oro puro. È da mesi che non vedono donne. Sono disperati. Parla con il capitano e pagalo all'arrivo», insisteva nei momenti in cui Eliza si alzava. «Non sono una di voi», replicava Eliza intontita nella dolce bruma delle droghe. Alla fine, in un momento di lucidità, Athusena Plathares riuscì a far confessare a Eliza parte della sua storia. Immediatamente l'idea di aiutare una fuggitiva d'amore si impadronì della sua immaginazione e da quel momento curò la malata con maggior dedizione. Ormai non si limitava a rispettare il contratto nutrendola e lavandola, ma rimaneva con lei anche solo per il gusto di vederla dormire. Se era sveglia, le raccontava la sua vita e le insegnava a recitare il rosario, attività che a suo dire era la migliore per far passare le ore senza pensare e al contempo guadagnarsi il cielo senza molti sforzi. Per una come lei, della sua professione, spiegò, era un ottimo sistema. Risparmiava scrupolosamente una parte delle entrate per comprare indulgenze alla Chiesa, per ridurre in questo modo i giorni di purgatorio da passare nell'altra vita, anche se, stando ai suoi calcoli, non sarebbero mai state sufficienti per tutti i suoi peccati. Trascorsero intere settimane senza che Eliza sapesse se era giorno o notte. Aveva la vaga sensazione che a volte ci fosse una presenza femminile al suo fianco, ma poi si addormentava e si svegliava confusa, senza poter dire se avesse sognato a Athusena Plathares o se davvero esistesse una donna dalle trecce nere, il naso schiacciato e gli zigomi alti che sembrava una versione giovanile di Mama Fresia. Il clima rinfrescò un poco quando si lasciarono alle spalle Panama, dove il capitano proibì di scendere a terra per paura dell'epidemia di febbre gialla e si limitò a mandare un paio di marinai con una scialuppa a cercare acqua dolce. dato che la poca rimasta era diventata melmosa. Oltrepassarono il Messico e quando l'Emilia stava navigando nelle acque della California, entrarono nella stagione invernale. Il caldo soffocante della prima parte del viaggio si trasformò in fredda umidità. Dalle valigie fecero la loro comparsa cappelli di pelo, stivali, guanti e sottane di lana. Di tanto in tanto il brigantino incrociava altre navi che salutava da lontano senza rallentare il ritmo di marcia. A ogni funzione religiosa il capitano ringraziava per i venti favorevoli, perché sapeva di barche che avevano deviato fino alle coste delle Hawaii in cerca di propulsione per le loro vele. Ai delfini giocherelloni si aggiunsero grandi e solenni balene che li accompagnarono per lunghi tratti. All'imbrunire, quando l'acqua si tingeva di rosso per i riflessi del tramonto, gli immensi cetacei facevano l'amore in un fragore di spuma dorata, chiamandosi l'un l'altro con profondi bramiti sottomarini. E a volte, nel silenzio della notte, si avvicinavano tanto all'imbarcazione che si poteva sentire nitidamente il rumore cupo e misterioso della loro presenza. Le provviste fresche erano terminate e le razioni secche scarseggiavano. Salvo giocare a carte e pescare, di svaghi non ce n'erano. I viaggiatori passavano ore a discutere i codicilli delle società costituite per l'avventura, alcune disciplinate da un rigido regolamento militare e provviste perfino di divise, altre più flessibili. Tutte si basavano fondamentalmente su un accordo allo scopo di finanziare il viaggio e le attrezzature, lavorare nelle miniere, trasportare l'oro e poi ripartirsi equamente i guadagni. Nessuno sapeva nulla dei terreni e delle distanze. Una delle società stabilì che ogni sera i membri dovessero far ritorno all'imbarcazione, dove pensavano di vivere per mesi e depositare l'oro di quel giorno in una cassaforte. Il capitano Katz spiegò loro che non poteva affittare l'Emilia come fosse un hotel, perché pensava di tornare in Europa il prima possibile e comunque le miniere si trovavano a centinaia di miglia dal porto, ma venne ignorato. Erano in viaggio da 52 settimane. La monotonia dell'acqua infinita alterava i nervi e al minimo pretesto scoppiavano risse quando un passeggero cileno fu sul punto di scaricare il suo schioppo su un marinaio Yankee al quale Azucena Plathres faceva troppe moine. Il capitano Vincent Katz confiscò le armi, rasoi compresi, con la promessa che le avrebbe restituite in vista di San Francisco. L'unico autorizzato a maneggiare coltelli era il cuoco, cui spettava l'ingrato compito di ammazzare a uno gli animali domestici. Quando anche l'ultima mucca andò a finire in pentola, Tao Chien improvvisò un'elaborata cerimonia per ottenere il perdono degli animali sacrificati e ripulirsi del sangue versato. Poi disinfettò il coltello passandolo diverse volte sulla fiamma di una torcia. Non appena la nave entrò nelle acque della California, Tao Chien sospese gradualmente le erbe tranquillanti e l'oppio a Eliza, si adoperò per nutrirla e la obbligò a fare esercizi affinché potesse uscire dalla prigione con le sue gambe. Azucena Plathres la insaponava con pazienza e trovò perfino la maniera di lavarle i capelli con tazzine d'acqua mentre le parlava della sua triste vita di meretrice e dell'allegra illusione di arricchirsi in California per poter tornare in Cile trasformata in una signora con 6 bauli di vestiti di lusso e 1 dente d'oro. Tao Chien ancora non sapeva bene come far sbarcare Liza, ma se era riuscito a farla salire a bordo in un sacco, sicuramente poteva utilizzare lo stesso sistema per farla scendere. E una volta a terra la ragazza non sarebbe più stata sotto la sua responsabilità. L'idea di separarsi definitivamente da lei gli procurava un misto di incredibile sollievo e di incomprensibile ansia. Quando mancavano poche leghe per arrivare a destinazione, l'Emilia prese a bordeggiare la costa nord della California. Secondo Azucena Plathres era talmente simile a quella cilena che sicuramente la barca non aveva fatto che girare in tondo, come le aragoste, e ora si trovavano di nuovo a Valparaiso. Migliaia di lupi marini e di foche si staccavano dalle rocce e si lasciavano cadere pesantemente in acqua in mezzo all'insopportabile gazzarra di gabbiani e pellicani. Non si vedeva anima viva sugli scogli, né traccia di case, e nemmeno l'ombra degli indiani che si diceva abitavano da secoli quelle regioni incantate. Alla fine si avvicinarono ai faraglioni che annunciavano la prossimità della Porta dell'Oro, la famosa Golden Gate, la soglia della Baia di San Francisco. Una spessa bruma avvolse l'imbarcazione come un mantello. Non si vedeva a mezzo metro di distanza e il capitano, per paura di urtare gli scogli, ordinò di rallentare la marcia e di gettare l'ancora. Erano molto vicini e l'impazienza dei passeggeri si era trasformata in esagitazione. Parlavano tutti contemporaneamente, mentre si preparavano a calpestare la terraferma e a dirigersi di corsa ai giacimenti in cerca del tesoro. Negli ultimi giorni, la maggior parte delle società di sfruttamento delle miniere si era sciolta. Il tedio della navigazione aveva creato inimicizie tra i soci e ognuno ora pensava solo per sé, sprofondando in sogni di incalcolabile ricchezza. Non mancò chi dichiarò il proprio amore alle prostitute e chi chiese al capitano di sposarli prima dello sbarco, perché era girata voce che il bene più scarso in quelle terre barbare erano proprio le donne. Una delle peruviane accettò la proposta di un francese che era in mare da talmente tanto tempo da non ricordare nemmeno il proprio nome, ma il capitano Katz si rifiutò di celebrare le nozze quando venne a sapere che l'uomo aveva una moglie e 4 figli ad Avignone. Le altre rifiutarono in modo assoluto i pretendenti. Avevano intrapreso un viaggio così penoso per essere libere e ricche, certamente non per diventare le serve senza stipendio del primo disgraziato che si offrisse in sposo. L'entusiasmo degli uomini andò placandosi a mano che passavano le ore immobili, sommersi nella lattiginosa irrealtà della foschia. Il secondo giorno, finalmente il cielo si liberò all'improvviso. Fu possibile disancorare e intraprendere a vele spiegate l'ultima tappa del lungo viaggio. Passeggeri ed equipaggio salirono in coperta per ammirare la stretta imboccatura della Golden Gate. 6 miglia di navigazione sospinta da un vento d'aprile sotto un cielo trasparente. Su entrambi i lati della costa si levavano colline coronate da boschi, incise come ferite dall'eterno lavorio delle onde. Alle spalle rimaneva l'oceano Pacifico e di fronte si stendeva la splendida baia come un lago di acqua argentata. Una salva di applausi salutò la fine dell'ardua traversata e l'inizio dell'avventura dell'oro per quegli uomini e quelle donne, come anche per i 20 marinai che decisero in quel preciso istante di abbandonare la nave al suo destino e di lanciarsi anch'essi verso le miniere. Gli unici a rimanere impassibili furono il capitano olandese Vincent Katz, che rimase a suo posto nei pressi del timone senza rivelare il minimo turbamento perché l'oro non lo commuoveva e l'unico suo desiderio era tornare ad Amsterdam in tempo per trascorrere il Natale con la sua famiglia, ed Eliza Somers, che dal ventre del veliero non seppe che erano arrivati se non parecchie ore dopo. La prima cosa che sconcertò Tao Chien entrando nella baia fu il bosco di alberi maestri. Era impossibile calcolare quanti fossero, ma contò più di 100 di imbarcazioni abbandonate in un disordine da fine battaglia. Qualsiasi lavoratore a giornata guadagnava in un giorno più di un marinaio in un mese di navigazione. Questi ultimi non solo disertavano per l'oro, ma anche perché tentavano di arricchirsi trasportando sacchi, facendo il pane o lavorando il ferro per le attrezzature. Alcune imbarcazioni vuote venivano affittate come depositi o alberghi improvvisati, mentre altre erano abbandonate a se stesse e diventavano depositi di alghe marine e nidi di gabbiani. Un secondo sguardo rivelò a Tao Chien la città aperta come un ventaglio sui pendii delle colline. Un viluppo di tende da campo, di capanne, di assi e cartone e qualche edificio, semplice ma di buona fattura, i primi di quell'insediamento appena sorto. Dopo aver gettato l'ancora, colsero la prima scialuppa e non era l'imbarcazione della capitaneria di porto, come si erano immaginati, ma quella di un cileno, desideroso di dare il benvenuto ai suoi compatrioti e di ricevere la posta. Si trattava di Feliciano Rodriguez de Santa Cruz, che aveva cambiato il suo nome altisonante in Felix Cross, per far sì che gli Yankee potessero pronunciarlo. Benché molti dei viaggiatori fossero suoi amici personali, nessuno lo riconobbe perché del signorino con finanziere e baffi lucidi di brillantina che avevano visto l'ultima volta a Valparaíso non rimaneva nulla. Ai loro occhi apparve un cavernicolo irsuto con la pelle abbronzata di un indiano, abbigliamento da montanaro, stivaloni rossi fino a mezza coscia e 2 pistoloni in vita, accompagnato da un nero dall'aspetto altrettanto selvaggio, anch'egli armato come un bandito. Quest'ultimo era uno schiavo fuggiasco che una volta entrato in California era diventato un uomo libero, ma non essendo stato in grado di sopportare l'estrema frugalità della vita di miniera, aveva preferito guadagnarsi da vivere come gorilla. Quando Feliciano si fece riconoscere, fu accolto con grida di entusiasmo e praticamente portato in trionfo fino al ponte di prima classe, dove i passeggeri in massa gli chiesero notizie. La loro unica curiosità era sapere se il minerale abbondava, come si diceva, domanda alla quale replicò che ce n'era anche di più e, estraendo dalla sua borsa una sostanza gialla dalla forma di cacca schiacciata, annunciò che si trattava di una pepita da mezzo chilo che era disposta a barattare con tutto il liquore di bordo. Ma l'affare non si concluse perché rimanevano solamente 3 bottiglie. Il resto era stato consumato durante il viaggio. La pepita, disse, era stata trovata dai valorosi minatori cileni che lavoravano per lui sulle rive dell'American River. Dopo aver brindato con l'ultima riserva d'alcol e aver ricevuto le lettere della moglie, il cileno passò a informarli su come sopravvivere in quella regione. Fino a qualche mese fa vigeva un codice d'onore e perfino i farabutti che lavoravano a giornata si comportavano con onestà. Si poteva lasciare l'oro in una tenda senza sorveglianza e nessuno lo toccava, ma adesso è tutto cambiato. Regna la legge della giungla e l'unico codice è quello dell'avidità. Non separatevi dalle armi e andate in giro a coppie o a gruppi. Questa è terra di fuorilegge, spiegò. Diverse scialuppe avevano circondato la nave. Gli uomini che si erano avvicinati gridavano, proponendo gli affari più disparati, decisi come erano a comprare qualsiasi articolo che a terra vendevano poi a 5 volte il prezzo pagato. Ben presto gli incauti viaggiatori avrebbero scoperto l'arte della speculazione. Nel pomeriggio apparvero il capitano del porto accompagnato da un agente della dogana e dietro a loro 2 scialuppe con diversi messicani e un paio di cinesi che si offrirono per trasportare il carico della nave sul molo. Chiedevano un patrimonio, ma non c'era alternativa. Il capitano del porto non dimostrò nessuna intenzione di esaminare i passaporti o di controllare l'identità dei passeggeri. Documenti? Non se ne parla. Siete arrivati nel paradiso della libertà. Qui non esiste la carta bollata, annunciò. Le donne, invece, lo interessarono molto. Si vantava di essere il primo ad assaggiare a una tutte quelle che sbarcavano a San Francisco, anche se non erano tante come avrebbe desiderato. Raccontò che le prime ad apparire in città, parecchi mesi prima, furono ricevute da una moltitudine di uomini euforici che fecero la fila per ore pur di non perdere il turno e che pagarono a prezzo d'oro, in polvere, in pepite, in monete e persino in lingotti. Si trattava di 2 intrepide ragazze yankee arrivate da Boston al Pacifico, passando per l'istmo di Panama. Aggiudicarono i loro servigi al miglior offerente e guadagnarono in un giorno le normali entrate di un anno. Da allora ne erano arrivate più di 500 e, fatta eccezione per qualche nordamericana o francese, erano per lo più messicane, cilene, peruviane. Ma il loro numero era comunque insignificante rispetto alla crescente invasione di uomini giovani e soli. Azucena Plateres non ebbe il piacere di sentire queste notizie perché Tao Chien l'aveva condotta nella stiva non appena era venuto a sapere della presenza dell'agente della dogana. Non avrebbe potuto far scendere la ragazza in un sacco sulle spalle di uno scaricatore come era salita perché i colli sarebbero stati sicuramente ispezionati. Eliza rimase sorpresa quando li vide perché erano entrambi irriconoscibili. Lui sfoggiava camicie e calzoni puliti, la sua treccia serrata brillava come se l'avesse oliata e si era accuratamente rasato. E dal canto suo, Azucena Plateres aveva cambiato i suoi panni da contadina per una tenuta da battaglia. Portava un vestito blu con piume intorno alla scollatura, un'acconciatura alta coronata da un cappello e labbra e guance color carminio. «Il viaggio è finito e sei ancora viva, bambina?» le annunciò allegramente. Pensava di prestare a Eliza uno dei suoi numerosi vestiti e di farla sbarcare come se fosse una in più del gruppo, idea che, come le spiegò, non aveva niente di strano, visto che sicuramente quella sarebbe stata la sua professione in terraferma. «Sono venuta per sposarmi con il mio fidanzato», replicò Eliza per la 100ª volta. «Oh, in questi casi non c'è fidanzato che tenga. Se per mangiare bisogna venderla, la si vende. In una situazione del genere non puoi stare a pignoleggiare sui dettagli, bambina». Tao Chien le interruppe. Se per 2 mesi le donne a bordo erano state 7, non ne potevano scendere 8, fu il suo ragionamento. Aveva osservato bene il gruppo di messicani e cinesi che era salito a bordo per scaricare e che aspettava in coperta gli ordini del capitano e dell'agente della dogana. Fece segno ad Azucena di pettinare i lunghi capelli di Eliza in una coda come la sua, mentre lui andava a prendere un suo cambio d'abiti. Vestirono la ragazza con dei pantaloni, una camicia stretta in vita da una corda e un cappello di paglia a ombrello. In quei 2 mesi in cui aveva sguazzato nelle secche dell'inferno, Eliza aveva perso peso ed era macilenta e pallida come carta di riso. Con i vestiti di Tao Qian, così grandi per lei, sembrava un bambino cinese denutrito e triste. Ad Usena, Plathers la prese tra le sue robuste braccia da lavandaia e le stampò un bacio emozionato sulla fronte. Le si era affezionata e in fondo la rallegrava l'idea di un fidanzato che la aspettava, perché non riusciva a immaginarla sottoposta alle brutalità della vita che sopportava lei. «Sembri un passerotto», disse ridendo Azucena. «E se mi scoprono? Qual è il peggio che ti possa capitare? Che cazzo ti obblighi a pagare il biglietto? Lo puoi pagare con i gioielli, non te li sei portati dietro apposta», rispose la donna. «Nessuno deve sapere che sei qui. Solo così il capitano Somers non ti cercherà in California», disse Tao Qian. «Se mi troverà, mi riporterà in Cile. E per quale motivo sei comunque disonorata? Sono cose che i ricchi non sopportano. La tua famiglia dovrebbe essere felice della tua fuga, così non dovrà sbatterti per strada». «Solo questo. In Cina ti ammazzerebbero per quello che hai fatto». «Senti un po', cinese, non siamo nel tuo paese e quindi non spaventare la ragazzina. Puoi uscire tranquillamente, Eliza, nessuno baderà a te. Saranno tutti distratti a guardare me», la rassicurò Azucena Plathers, congedandosi in un turbine di piume blu con la spilla di turchesi appuntata sulla scollatura. Le cose andarono effettivamente così. Le 5 cilene, le 2 peruviane, nelle loro più esuberanti tenute da conquista, furono lo spettacolo del giorno. Scesero nelle scialuppe su scalette di corda, precedute da 7 fortunati marinai che si erano contesi il privilegio di sostenere sulla loro testa le natiche femminili, in mezzo al coro di fischi e di applausi delle centinaia di persone ammucchiate nel porto per riceverle. Nessuno prestò la minima attenzione ai messicani e ai cinesi che, come una fila di formiche, si passavano i bagagli di mano in mano. Eliza prese posto in una delle ultime scialuppe insieme a Tao Qian, che annunciò ai compatrioti che il ragazzino era sordomuto e un po' imbecille e che quindi era inutile cercare di comunicare con lui.